Ecco il dialogo. Alla stazione dei carabinieri. Allora, maresciallo, è tutto a posto? Certo, certo, però, signorina, si ricordi, bisogna sempre avere un documento d'identità. Sì, certo. Non si preoccupi, maresciallo, non succederà più. Vero, Sara? Oh, no, never. Beh, arrivederci. Arrivederci e grazie. Arrivederci.